Come passa il tempo stasera e mi commuove come una preghiera che mi attraversa e mi confonde i pensieri e mi riporta verso il mondo di ieri. Ho ancora un dubbio e non lo posso fermare, quanti deserti devo ancora annaffiare prima di cogliere quel fiore che hai nel cuore. Cosa ho imparato dai miei errori di sempre? Cosa ho cercato se non trovo più niente nel mio futuro che ora si scioglierà nel sole? Nel sole. Di questo inizio bello di primavera, dagli ideali che non contano più, con la mia donna che per sempre sei tu. Perché è dolcissimo pensarti anche ora. Come passa il tempo stasera, che corre tra le verità perdute, che sale verso le montagne incantate, che sa la strada che mi porta da te. Oh, come passa il tempo stasera, che sento tutta la tristezza che c'è. Penso come ho già pensato all'amore, come pensavo al mio amico migliore, ai miei ricordi che non vengono più da amare. Tu sei la prova che c'è un senso alla vita, che nell'assurdo c'è una storia infinita, che nella gente c'è qualcosa che fa sognare. Di questo inizio bello di primavera, tra gli ideali che non contano più, con la mia donna che per sempre sei tu per me. Perché è dolcissimo pensarti anche ora. Come passa il tempo stasera, è una linea di frontiera di quello specchio che si chiama destino, che vedo solo attraverso di te. Oh, come passa il tempo stasera, che sento tutta la tristezza che c'è. Con la mia donna che per sempre sei tu per me. Perché è dolcissimo pensarti anche ora. Come passa il tempo stasera e mi commuove come una preghiera che mi attraversa e mi confonde i pensieri e mi riporta verso il mondo di ieri.